fai qua al centro? Sì, lo sto facendo uno anche a casa per l'autonomia di casa, per la spesa, che vado a fare la spesa da sola, poi sto facendo un po' l'utilizzo dei soldi, perché faccio molto fatica perché ho problemi anche della vista. Allora, il E qual è il tuo progetto preferito? mio progetto preferito, ne ho qua tanti, il progetto domani è anche Giubbo in Boccaneve. Io il progetto domani l'ho appena fatto da pochi giorni in questo mese e ogni tanto l'ho fatto anche in gennaio. Cos'è che fate? E noi il progetto domani facciamo gli hurricane, che delle volte facciamo, andiamo a fare le passeggiate, delle volte ci sono delle feste, si cucina anche la torta. Sono venuti qua tante persone, anche parecchie. Ma mi sono trovata un po' anche le prime volte che a venire qua che non mi sentivo proprio che mi rispondevano un po' male, forse per non conoscermi Chi ti bene. E rispondeva anche male? le mie compagne di giù, di sotto, poi qua. E allora io mi sentivo un po', quando tornavo a casa, che ero anche un po' timida. E dopo mi sono tirata dentro e mi sono fatta molto. Mi dispiace adesso, ma se mi dicessi di stare a casa venirei più volentieri adesso qua, è come una famiglia. Che cosa ti ha aiutato a migliorare? Ma migliorate anche per parlare di più, perché io mi chiedevano delle cose, però io non rispondevo quasi mai. E ci sono delle regole qua, cioè in appartamento, Sì. per Che esempio. come il telefono, che quando siamo qua a mangiare noi dobbiamo lasciarlo spento, perché Ma una sulla volta tavola? sì, noi dobbiamo, che poi qua facciamo anche dei turni per la lavastoviglie. Sì. Sì. Sì, che siamo qua, 4-5 qua in appartamento, e dopo ci dividiamo i compiti da fare, come le lavastoviglie o l'aspirapolvere. Cos'è la cosa Come che odi di più fare in io? appartamento? Sì. Il da spassare non mi piace tanto. Mi piace più l'aspirapolvere, forse. Sì. È quella cosa che ti piace di più fare qua in appartamento? Anche cucinare mi piace molto. Mi piace tutto qua, anche giù in Boccaneve, mi piace molto tutto.